L'osservanza della legge val più dei sacrifici. La pratica dei comandamenti è sacrificio di comunione. Chi ricambia un favore è come chi fa offerta di farina, e chi dà l'elemosina è come chi fa un sacrificio di ringraziamento. Piace al Signore lo star lontani dal male, astenersi dall'ingiustizia è un'espiazione. Non comparire a mani vuote davanti al Signore, tutti questi sacrifici sono comandati. Il sacrificio del giusto ingrassa l'altare e il suo odore giunge innanzi all'Altissimo. Il sacrificio del giusto è gradito, il suo ricordo non sarà dimenticato. Onora il Signore con occhio contento e non lesinargli le primizie delle tue mani. In ogni offerta abbi un volto lieto, consacra la decima con gioia. Dà all'Altissimo come Lui ha dato a te, con occhio contento, quanto si trova nelle tue mani. Perché il Signore è uno che ricambia, ti ridarà sette volte tanto. Non cercare di corromperlo con doni, non accetterà, e non confidare in un sacrificio ingiusto, perché il Signore è un vero giudice che non si inganna con la gloria apparente. Non fa favori a spese del povero, né esaudisce la preghiera se è maltrattato. Non è insensibile alla supplica dell'orfano e della vedova che versa il suo lamento. Se le lacrime della vedova scendono sulle guance, il suo grido non scenderà contro chi le fa versare? Chi serve Dio come lui vuole sarà accetto. La sua preghiera giungerà fino alle nubi. La preghiera dell'umile attraversa le nubi. Finché essa non approda, egli non si consola. Finché l'Altissimo non interviene, essa non si ferma, per riconoscere ed eseguire il diritto dei giusti. Il Signore non farà indugio, non avrà pazienza con loro, finché avrà spezzato i fianchi dei violenti e fatta vendetta contro le nazioni, finché avrà sterminato la massa degli insolenti e spezzato gli scettri degli ingiusti, finché avrà reso a ciascuno secondo le sue opere e a tutti secondo le loro intenzioni, finché renderà giustizia al suo popolo per consolarlo con la sua misericordia. La sua misericordia è propizia nella tribolazione, come la nube della pioggia nella siccità.